piacere, ma tu hai voluto fare testa tua, te l'hai comprato e adesso te lo tieni. Buonasera a tutti signori, moderatore del canale 47, Claudio Sparviero dalla città di Sassari, Gambio Gambio. Ciao Claudio, ma ero sentita a cosa poco fa con te, ero in cucina a Sanno. Cucina, mi pare di aver detto a Sandro che stava parlando con te. Ehi, gli ho detto un attimino che mi stavano suonando il campanello, sono entrato, ho chiamato, non c'era. Ho chiamato il di dinamite, non c'era. Positivo, è positivo. Ah, gli ho detto mi stavano chiamando il 5, l'ho sentito io. Ma sono entrato, sono suonando, poi ho tirato su una levetta qua, perché vi ho lasciato in questo canale, in questo vi ho trovato, vai. Non c'è problema, ciao Gigi, buonasera anche a te, non so chi ci sia altro, Sì, mi pare siamo noi tre, no? Niente, io mi sono trovato un attimino, però ho sentito a Sandro che stava parlando con Massimiliano, poi quando sono ritornato, no? Vabbè, non c'era, mi sei entrato tu. E io faccio un altro 10 minuti ancora di radio, poi andiamo a vedere l'evento della nazionale contro la Spagna e poi alle 7:05 giriamo per la partenza del Gran Premio della Formula 1 lì in Canada. E poi guarda che dopo quello ci sono biciclette, poi c'è nuoto, poi c'è mia sorella che fa salto in alto, capito? No, poi non l'abbiamo preso, noi allora se andiamo fuoco, siamo in festa, saluti. E c'è mia cognata che compie gli anni e stanno portando un po' di roba da arrossire, qua c'è un po' di finello da bere e c'è una piccola festicciola, quindi ci guardiamo un po' di partita, un po' di Formula 1 e poi ci facciamo due giri di asinello alla graticola. Dai attento, prendi quell'asinello che c'ha tre zampe, capito? Non quello che ne ha quattro, no, quello che ne ha tre, mi Massimiliano. Caparezzolo, quello gliel'abbiamo tagliato, gli abbiamo messo un gancio, l'abbiamo girato, gli abbiamo messo un blocchetto per farlo lungo, capito? E quello per infilarlo nel QSO a qualche uno, quando lo si comporta bene. Tutto, anche la cena, già lo sai cosa devi fare, lavati, non andare a lavoro così domani. No, negativo, facciamo un docettino, poi domani mattina ci laviamo le farre. Ci vogliono anche queste cose, dai. Allora Gigi Luca, ti ho lasciato qua alle 3, accendo le 6 e ti trovo ancora con le 47. Tipo, no, stavo facendo cosette in garage. E niente, poi sono passato solito, ero giù in garage, state tutto Nando a prendersi quel Nando Succi, siamo andati a prenderci un caffè, una cosa fresca al bar e si è fatta l'ora, dai. Poi adesso mi sono risalito su, sarò 20 minuti, non lo so, a occhi e croce, sono salito a casa e stavo parlando, mi sono trattenuto perché c'era Massimiliano e stavo parlando con lui, dai, del più e del meno. Già va bene. Stavo ascoltando già da poco fa, poi io sono entrato a salutarli così. Bella via, e io devo andare da nessuna parte, sempre un brato, ma lui deve vedere i giornali un tempo, vattenamente a brazzito. Sta la muscia di sommo, è pure da un besta la muscia. Andiamo io in bicicletta che avevo le vigne del gozo, avevo i giornali. Allora, sento la voce un attimo presto alle 7, che è sotto casa di mamma. Un attimo, molto S sul giornale, molto S, che se non capivo mai cosa voleva dire. e poi alla fine ho capito che leggeva la prima pagina, la riceva in diretta a voce alta, che ma è no, ma vai. E allora Massimiliano, tutto bene per il resto, insomma, un po' di delusioni e per il resto tutto bene, vai, fregatene, frega, guarda qua, l'ana 48 mio, sempre turbo, non lo tocco e quando non funziona prova come se lo lampo, cambio. Sempre bene, sempre bene, io guardo sempre avanti, un po' di delusioni, giustamente non sono della radio, anche di qualche duro, però va bene lo stesso. Va bene lo stesso, bisogna guardare avanti, andare avanti come si sa fare, gaba. Auditivo, vai. Vabbè, di quelle non mancano mai. Di quelle non mancano mai, ma ci vediamo. Però bisogna sempre guardare avanti e stare sereni. Pensare sempre che queste rubi e le rovette si rabbia in culo, vedete una futti. Ci sono cose molto più interessanti, dai, e molto più importanti che stare con questi cacchi e baracchini, tanto ne bidi uno, non te biasi, ne bidi un altro, non te biasi e così via. Allora, io mi sono promesso di non comprare più niente, va. Questo lo voglio vendere, non lo voglio vendere, boh, non lo so, è sempre lì fermo. Oggi mi l'ho acceso per farlo andare un po', ma vuole del duro e chissà quanti giorni rimane spento, non ci sono problemi. Tu Gigi cosa stai usando? Tutto. In questo momento è 48, Claudio. Ai, oggettivo, non stai andando bene. Tu Massimiliano cosa stai usando? Il brutto. Gamma, il brutto. Ma hai preso anche un 8001, ti ho sentito l'altro giorno, così è. Bella, positivo, caro, ma guarda, l'ho preso veramente perché c'avevo una cosina da parte. L'ho preso già pronto, diciamo, già pronto, già preparato. La verità l'ho preso perché me ne hanno parlato molto bene questo caso del radio, ma a me non mi attira più di tanto. C'ha tutti questi problemi in gomma, già sono tutti questi immobili. Non mi piace, devo essere la verità, magari sì, vederlo così, ma averlo io, guarda, me ne sono pentito, guarda, ma io veramente me ne sono pentito. Però abbiamo già trovato il rimedio, l'ha vinto, ne abbiamo il mio cugino che se lo mette in marca e io mi preparo quello nero, quel Galaxy, che sei tu. Ehi, quello è una bella macchinetta, quel Galaxy Uranus è una bella macchinetta, va molto bene, a parte che non ha problemi di canali, di watt, di niente, l'hai fatto bene, una bella scheda colta, un bel lavoro dentro, e c'è una bellissima radio, è un semicontinuo da 26 a 30, quindi no. Senza tranchia, c'è un macchinario a fare, modifiche contro modifiche, beh. Vabbè, fai bene, quando ci sono gli spiccioletti bisogna investirli, poi se uno piace il baracchino così è giusto che ce l'abbia, vai. Gava. E tu Gigino, investimenti non li stai facendo più in radio, cambio. Cosa? Claro, stavo seguendo gli investimenti, così hai detto. Gli investimenti in radio non ne stai facendo più, sono quelli che ho visto io, c'hai. Qualche altra non l'hai vista perché ce l'ho da un'altra parte, dai. Capito, già mi capisci, trovami, queste ce l'ho da una parte e quelli ce l'ho dall'altra, capito? Ah, è vero. Beh, vabbè, io sono un po' distratto, non sto lì a altri che ballacche. Ho visto che è tutto in occhio, non c'è bisogno di nascondere niente. Già va bene. Che ore sono? 6:05, signore, dai, io vado a vedermi la partitella, comunque qua è tutto acceso. sia nelle parti alte che nelle parti basse. Se coincide ci sentiamo dopo. Claudio Sparviero vi saluta tutti quelli del canale 47. Ciao Gigi, ciao Massimiliano, ciao a chi sono, a tutti quelli che sono in ascolto, vai. Ci riascoltiamo più tardi che mi guardo la partitella. A te Massimiliano, cambio. Ehi Acra, mi approfitto di io, dai. Buona serata, buona partita e buon tutto, dai. Anche io chiudo, devo avere una partita, dai. Ciao Gigi, anche a te, ci sentiamo le prossime, dai, ci vi saluto, ciao ciao. Ma ciao Claudio, ciao Massimiliano, dai, anche io chiudo, ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao ciao, a dopo.